Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meris. Difficilmente ci occupiamo di ricerca di base in questa rubrica, ma questa sera vogliamo parlarvi di LISA Pathfinder, la missione che prelude alla realizzazione di LISA, il primo osservatorio spaziale di onde gravitazionali di cui è appena stata confermata l'esistenza. Vogliamo parlarvene perché, sebbene questa ricerca non abbia ricadute pratiche, diciamo, prevedibili, siamo di fronte a una spettacolare dimostrazione di capacità tecnologiche dove, tra l'altro, l'Italia ha avuto un ruolo centrale. Di che cosa parliamo? Immaginate di stare su una specie di grande tappeto elastico. Se questo venisse teso o allungato, una persona che si trovasse davanti a voi si allontanerebbe e viceversa. Ebbene, come ha scoperto Einstein, lo spazio è una specie di tappetone elastico tridimensionale, o se volete una sorta di grande caramella gommosa all'interno della quale viviamo anche noi. Se si espande questo caramellone, se si contrae o se viene attraversato da delle vibrazioni, tutti i corpi che si trovano al suo interno finiscono anch'essi per allontanarsi, avvicinarsi o oscillare. C'è un dettaglio però: per far vibrare lo spazio in modo percettibile ci vogliono eventi di una violenza pazzesca, come buchi neri o interi nuclei galattici che si fondono. E anche in questo caso, alla distanza da cui per nostra fortuna ci troviamo da questi fenomeni, le onde gravitazionali sono così deboli che per riuscire a misurarle agevolmente serve una specie di miracolo tecnologico che cerchiamo di capire con l'aiuto di Stefano Vitale, ordinario di fisica sperimentale dell'Università di Trento, dove è stato progettato il cuore dell'esperimento. Buonasera Vitale. Buonasera. Allora, senta, per capire LISA Pathfinder spieghiamo che cos'è LISA, che è un po' l'obiettivo finale. Allora, LISA è un osservatorio di onde gravitazionali nello spazio, è una costellazione di tre satelliti messi ad alcuni milioni di chilometri di distanza uno dall'altro a formare un triangolo. E in buona sostanza, quando passa l'onda gravitazionale, i lati di questo triangolo oscillano, come dice lei, la gomma si contrae e si dilata di molto poco e i satelliti, o ancora meglio, delle masse di prova che sono dentro i satelliti, oscillano uno rispetto all'altra. Di quanto più o meno parliamo di? Una frazione di un milionesimo di miliardesimo di metro. Ecco, per capirsi, d'accordo. Su un milione di chilometri di base per misurare questa piccola differenza. E come fate a misurare la lunghezza di questi lati? Qui viene l'aspetto più, oserei dire, fantastico della vicenda. Noi usiamo un laser e il principio è come quello della polizia. La polizia le manda addosso un fascio di onde elettromagnetiche e del fascio che è in basso la polizia misura la frequenza, il loro apparecchio misura la frequenza e da questo vede se la macchina si sta muovendo e con che velocità si sta muovendo. Facciamo questo da un satellite all'altro. Voi fate rimbalzare su tre cubi d'oro e platino, qualcosa del genere, adesso ci spiega, esatto. Un laser. Questo vuol dire che questo laser fa un milione o qualche milione di chilometri, poi rimbalza su un oggettino grande pochi centimetri e rimbalza su un altro satellite a qualche milione di chilometri. In realtà c'è un trucco. Meno male. Il laser raggiunge il satellite lontano, lì viene generato un altro fascio laser che è un po' come se rimbalzasse, ma il rimbalzo, diciamo, ci dobbiamo simulato, lavorare un po', sì. È simulato e quando ritorna il poliziotto su uno dei due satelliti ha misurato la velocità con cui si sta spostando l'altro satellite. Veniamo a LISA Pathfinder. Che cos'è LISA Pathfinder? Allora, diciamo, il problema è questo, che per vedere le onde gravitazionali bisogna che solo le onde gravitazionali mettano in movimento le sue masse di prova. Se c'è qualunque altra cosa che le fa oscillare, lei crede di aver visto le onde gravitazionali e invece chissà che ha visto un campo elettrico, delle molecole che rimbalzano sulle masse e così via. Quindi bisogna dimostrare che si possono mettere queste masse in caduta perfettamente libera nello spazio con la precisione richiesta da LISA. Fortunatamente, per dimostrare questo, non serve metterla a 5 milioni di chilometri. Quindi quello che noi abbiamo fatto, abbiamo preso le due masse a 5 milioni di chilometri, invece che a 5 milioni di chilometri le abbiamo messe a 30 centimetri una dall'altra dentro un satellite per verificare che stessero perfettamente ferme una rispetto all'altra. Ovviamente. Ok, quindi sostanzialmente è un esperimento che serve a dimostrare che l'esperimento che avete in mente di realizzare avrà la sensibilità giusta per rivelare queste benedette onde gravitazionali prima di mandare per aria tre satelliti complicatissimi che poi non rivelano niente. Qui l'obiettivo è fare ricerca fondamentale, si sta aprendo una nuova branca dell'astronomia, sostanzialmente quella delle onde gravitazionali, ma per arrivare a questo è stato necessario sviluppare moltissima tecnologia ed è da lì che possono arrivare delle ricadute pratiche. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Lei deve pensare che far andare una massa di prova nello spazio senza disturbi è il cuore della navigazione inerziale. Quella che usano i satelliti. Quello che noi abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che riusciamo a fare una di queste masse circa 10.000 volte meglio di qualunque cosa fosse stata fatta quindi, prima. Migliorare la navigazione inerziale di un fattore 10.000? Diciamo grosso modo. E poi pensi solo che cosa vuol dire riuscire a comunicare a milioni di chilometri di distanza via laser fra due satelliti. Questo certamente, diciamo, non è mai stato fatto, riuscire a passare informazione da un satellite all'altro a milioni di chilometri. Con un laser consentirebbe di passare più informazioni, per esempio, no? Ha una banda maggiore questo laser. Ha una banda maggiore, quindi è questione di fantasia, le possono venire in mente, non è che noi abbiamo come scopo fare questo. Certo. Ma noi siamo una scusa per avanzare la tecnologia. Va bene, grazie a Stefano Vitale. Grazie a lei, arrivederla.